America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, Wall Street alla fine ha chiuso mica male ieri, soprattutto se facciamo un confronto con quello che è successo a Tokyo, dove le perdite erano state del 7%, addirittura al di sopra del 7%, le perdite in Italia erano state superiori al 3%. Insomma, c'è stata una giornata molto particolare in cui abbiamo assistito a una dicotomia di quello che sta capitando sui mercati mondiali, perché il giorno prima Wall Street non era andata benissimo perché c'erano state dichiarazioni un po' ambigue di Ben Bernanke, poi però insomma gli operatori americani hanno capito che non si trattava di un vero e proprio annuncio, si trattava così di aggiungere qualche dettaglio in più su quello che è un percorso già tracciato, non ci sono state delle sostanziali novità, se non, ed è stato questo il punto chiave, se non il fatto di dire, beh, forse in alcune delle prossime sedute potremmo cambiare qualcosa. Qual è la differenza? La differenza è che finora Ben Bernanke aveva detto cambieremo qualcosa quando l'economia migliorerà. Questa volta ha detto forse cambieremo qualcosa nel corso dei prossimi incontri. Ecco, non è una differenza da poco, perché significa che ci sono delle forti pressioni all'interno del Consiglio dei Governatori della Fed per smetterla con questa politica accomodante che rischia, secondo alcuni, di creare una bolla. Ecco, vi dicevo però che in queste dichiarazioni Bernanke era stato chiaro che tutte le porte restavano aperte. Che è successo? Beh, è successo che quando la notizia è arrivata a Tokyo, gli operatori si sono subito preoccupati e infatti se si guarda il grafico di come sono andate le cose, all'inizio Tokyo apre in caduta e pensano che le parole di Bernanke siano preoccupanti, poi capiscono quello che hanno capito gli operatori americani e si vede che l'indice a Tokyo risale subito, se non che c'è una notizia, questa volta in arrivo da Pechino, e cioè l'indice PMI, l'indice che dà un polso delle piccole e medie imprese, che scende a quota 49,6, cioè al di sotto di quota 50, e quando si scende al di sotto di quota 50 significa che c'è un pericolo di rallentamento del settore. Panico. Tokyo comincia a cadere in modo verticale, lo si vede benissimo da questo grafico. A un certo punto si capisce che il mercato obbligazionario sta per cedere, c'è un rimbalzo fino all'1% del rendimento dei titoli a 10 anni e la borsa precipita a picco. Poi ci sono stati degli interventi da parte della banca centrale giapponese, ma era diciamo a quel punto era un po' troppo tardi. Ecco, perché sono entrato in questo dettaglio? Perché nell'economia globale tutto è intrecciato e ci sono però delle situazioni, dei momenti in cui il localismo prevale. In Asia ha prevalso il localismo, l'economia giapponese dipende ormai molto da quella cinese, se l'economia cinese rallenta ci sono dei problemi per Tokyo, se l'economia cinese rallenta ci sono dei problemi per l'Europa e dunque ecco che subito in apertura europea abbiamo avuto delle perdite, di nuovo che in qualche modo confondevano queste dichiarazioni di Bernanke con queste indicazioni di debolezza dalla Cina. Ora, io dico, secondo me è importante non soffermarsi su delle problematiche di volatilità di brevissimo termine, occorre guardare al medio termine e per il medio termine c'è soltanto un messaggio. Per l'Italia fare le riforme che dobbiamo fare, che il nostro governo deve fare e che gli investitori americani si aspettano e posso dirvi che sono pronti ad investire nel nostro paese se procederemo lungo la strada delle riforme, per l'Europa in particolare dare dei messaggi rassicuranti verso un rafforzamento dell'Unione. Su questo la Germania, devo dire, non è sempre puntuale, non è sempre rassicurante, questo è un peccato perché davvero si potrebbero fare cose straordinarie anche a livello europeo. Our systematic effort to dismantle terrorist organizations must continue. But this war, like all wars, must end. Ho aperto sull'economia perché qui a Radio 24, ad America 24, ci interessa molto, ma l'altra grande notizia del giorno di ieri è stato il discorso del presidente Barack Obama. Lo avete sentito, ha parlato con chiarezza su un cambiamento radicale di quella che secondo lui dovrebbe essere la guerra contro il terrorismo. Devo dire, il presidente americano ha usato parole molto ispirate. Le guerre finiscono, tutte le guerre finiscono, anche la guerra contro il terrorismo deve finire, non possiamo tenere aperta questa guerra contro il terrorismo. E dunque ha annunciato una serie di novità, ha detto che gli attacchi coi droni, che a un certo punto sono stati intensi, violenti, hanno prodotto danni collaterali imbarazzanti per l'amministrazione, facendo vittime per esempio fra bambini, fra innocenti, persino fra cittadini di nazionalità americana. Ecco, queste missioni dei droni saranno sottoposte a controlli molto più severi prima di essere autorizzate. Secondo punto, dovremo focalizzarci soprattutto sulle organizzazioni strutturate che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e per il resto del mondo. Non dobbiamo disperdere le energie combattendo contro tutto e tutti. Altro punto, ha promesso che cercherà di chiudere Guantanamo Bay, questa prigione che aveva già promesso di chiudere 4 anni fa, poi si è reso conto che le complicazioni giuridiche e legali erano insuperabili e dunque ha dovuto rinunciare. È stato uno dei più grossi fallimenti dal punto di vista delle sue promesse in campagna elettorale. Si è reso conto che forse George W. Bush non aveva tutti i torti, perché lui stesso voleva chiuderla e non poteva, e Obama diceva ma io potrò, io ce la farò, non ci è riuscito, ora vuole farcela a tutti i costi. Chiederà al Congresso di togliere la pregiudiziale secondo cui alcuni di questi prigionieri non potevano tornare, per esempio nelle loro case, per esempio nello Yemen, dove poi magari saranno processati in forma separata. Non ci sono ancora molti dettagli, ma ci sono delle promesse per scaricare la tensione. Secondo me la motivazione vera del Presidente degli Stati Uniti è quella di dire: se noi teniamo alto il livello della tensione, continuando a fare attacchi a sorpresa molto intensi, uccidendo dei civili, finisce che provochiamo delle reazioni molto negative in quel potenziale militante islamico che non è legato a una struttura, a un'organizzazione. Boston, per esempio, dove i due fratelli Tsarnaev hanno fatto la strage durante la maratona, oppure l'incidente che c'è stato in Inghilterra dove due immigrati hanno ucciso un soldato così per caso. Si vuole dunque voltare pagina, si vuole dunque dare l'idea che la guerra al terrorismo nella sua fase più acuta, più estrema, sia finita. Ecco, naturalmente questo ha portato critiche al Presidente degli Stati Uniti. Alcuni repubblicani hanno attaccato Obama, hanno detto queste sue dichiarazioni portano una vittoria ai terroristi, sicuramente per loro oggi è un giorno in cui celebreranno. In parte hanno ragione, devo dire, ma non perché non sia una buona idea quella di voltare pagina sulla guerra al terrorismo, ma perché nel momento in cui si volta pagina bisogna dare anche delle prospettive molto precise, molto concrete, e per ora temo Obama ancora non l'ha fatto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.